Esce mattina con solo un braccio e porta cose do Jacquin se scelta in brezza. Esce mattina porto caffè a chi con cuore amare se vuoi con già bocca. E perché no, non è una malattia, è solo bugondria. Non mi passa sta malia che un corpo mi porta e dopo la ballucchia e ride. Fatta la vicina tocca ma faccia che già non porta sì che fuori un passa solo una volta lascia la va cavando prima una parola da girare.